24 ore in Europa, in collaborazione con Euronet. Buonasera dalla redazione, da Raffaella Calandra e bentrovati a questo nuovo appuntamento con 24 ore in Europa. In primo piano oggi l'assalto finale a Muammar Gheddafi in Libia con le reazioni internazionali, l'allarme recessione per l'Eurozona e l'archiviazione per Dominique Strauss-Kahn. Cominciamo dunque dalla missione in Libia arrivata alle sue ore cruciali. Al Tripoli i ribelli espugnano il cuore del potere del colonnello ed entrano nel suo compound dove issano la loro bandiera. Violenti combattimenti intorno alla base mentre anche le forze NATO bombardano. Per il presidente americano Barack Obama è vicina la fine dell'era del dittatore. Da Tripoli il racconto di Cristiano Tinazzi. Oggi c'è stata l'ultima grande battaglia finale, la battaglia per conquistare il confine, proprio la Tunisia. Stamattina alle 10 del mattino eravamo partiti con una rana di pick up da Super Juma, che era la zona, l'enclave più ribelle in questi giorni, quella più sicura di Tripoli, e siamo arrivati in Piazza Verde. C'è stato subito un contrattacco da parte delle forze Gheddafi, con dei tiratori scelti e dei mitragliatori pesanti posizionati sui terreni, che hanno fatto subito retrocedere i ribelli. Dopo alcune ore si è tentato il secondo attacco, più importante. Sono arrivati da Misurata e da Zintana altri ribelli con cannoni e armi pesanti, e dopo 4 ore di battaglia sono riusciti a entrare nel compound. E la scena era apocalittica, era un inferno, svolavano razzi dappertutto, esplosioni, c'erano persone ferite, morti. Alla fine sono riusciti a conquistare completamente il compound e a innalzare la bandiera di Bengasi sul tetto di quella che era la casa di Gheddafi. E sulla fine del regime del colonnello, l'analisi di Alberto Negri, inviato del Sole 24 Ore. Che cosa sta succedendo intorno e soprattutto dentro al bunker di Gheddafi? Questa vicenda è una sorta di psicodramma di un leader, ma anche di un'intera nazione, che non riesce a liberarsi di lui perché forse troppo a lungo si è identificata o addirittura è stata complice del dittatore. Dovrebbe essere facile entrare, catturarlo oppure costringerlo a una fuga disperata, e invece sta accadendo qualche cosa che ancora ci sfugge, perché le notizie che arrivano dagli ribelli sono assai contraddittorie. È evidente che il regime è finito, forse nello stesso giorno in cui la NATO, il 21 marzo, cominciò i bombardamenti, ma nonostante il sostegno dell'Alleanza Atlantica, la mancanza di organizzazione e determinazione degli insorti stanno prolungando l'agonia di un paese, di un dittatore che si è rifatto vivo conversando amabilmente con un campione di scacchi russo. Se intorno non ci fossero stati i morti, le distruzioni e le pene di 48 anni di regime ferreo, il tutto apparirebbe quasi una sceneggiata. Non è così. Dentro al bunker si consuma l'ultimo atto di una tragedia e il finale appare fosco. E il vicino crollo del regime del colonnello aprirà, secondo molti osservatori, una nuova fase di intense partenze dal Nord Africa verso l'Europa. Gli ultimi immigrati sbarcati in Italia provenivano da Libia e Tunisia. Gabriele Del Grande al microfono di Giampaolo Musumeci. Mentre dalla Libia si fugge dalla guerra, quindi dal fuoco di Gheddafi, dei ribelli e della NATO. Dalla Tunisia invece si è partiti inseguendo quello che è stato un sogno per anni, e se volete la mia analisi della Tunisia è che sull'onda dell'ubriachezza di libertà in un paese dove dopo la caduta del regime ai ragazzi sembrava che tutto fosse possibile, appunto 25.000 ragazzi si sono presi con la forza, passando senza documento una frontiera, del proprio diritto di viaggiare liberamente nel mondo. Cioè, i ragazzi che sono venuti in Italia sono gli stessi ragazzi che hanno fatto le manifestazioni contro il regime. E siamo all'economia. Un nuovo allarme per la stabilità dell'euro arriva dall'ex numero uno della Federal Reserve. Euro is breaking down, ha ammonito Alan Greenspan. Parlando alla Mary Talk 2011 Innovation National Forum a Washington, ha detto che la moneta unica europea è vicina al collasso e che aumentano i rischi di recessione. E siamo quindi alla giornata in borsa. I finanziari mandano in rosso Milano, peggiore borsa del vecchio continente, con il FTSE MIB che ieri ha ceduto l'1,04% e l'All Share lo 0,97%. Neppure l'apertura positiva di Wall Street è riuscita a far invertire rotta a Piazza Affari, che dopo una mattinata positiva ha toccato perdite del 2%, anche in seguito alle parole di Alan Greenspan, ex numero uno della Federal Reserve, che giudica vicino il collasso dell'Eurozona. A deprimere il listino milanese mese sono stati soprattutto i finanziari, con gli operatori nervosi per le incertezze sull'eventuale prosecuzione, oltre venerdì, del divieto di vendita allo scoperto sui titoli di questo settore. In Europa, invece, Parigi e Francoforte hanno recuperato rispettivamente circa l'1,1%. Per tornare a Piazza Affari, la peggiore è Popolare di Milano, meno 4,9%, che paga le incertezze sull'aumento di capitale. Positiva invece Campari, più 1,9%, grazie alla promozione della casa d'affari JP Morgan. Ciò Condina da Radio Corp per Radio 24 e Sole 24 Ore. La crisi si riflette soprattutto sul sistema bancario internazionale, che dunque preannuncia tagli. A vederlo da clienti sembra sempre lo stesso mondo, quello dove ci spennano sul conto corrente, dove il risparmio non rende più nulla, quello dei manager con bonus stratosferici. Invece tira aria pesante per il sistema bancario internazionale alle prese con l'estate nera dei mercati e il crollo dei profitti e degli utili. Si calcola che nelle ultime settimane i primi 50 gruppi del credito abbiano annunciato la necessità di sopprimere fra le 50 e le 60.000 poltrone, la riorganizzazione più pesante dalla crisi del 2008. L'ultimo annuncio arriva da una big europea, UBS, taglierà 3.500 posti per risparmiare 2 miliardi di franchi. 2.000 tagli in vista anche per la concorrente Credit Suisse. Nel Regno Unito, Barclays, il cui numero uno Bob Diamond si è regalato lo scorso anno stock option per 11 milioni di euro, ha annunciato 3.000 tagli, tutti in Gran Bretagna. Dolori anche per il colosso HSBC. Il boss Stuart Gulliver si è portato a casa quasi 14 milioni di euro, ma l'istituto ridurrà la sua forza lavoro di 30.000 unità. 2.000 posti in meno per Royal Bank of Scotland, salvata dal governo 3 anni fa. 4.500 quelli previsti entro il 2012 dai Lloyds. Anche in America sta calando di nuovo la scure. Bank of America per la fine dell'anno prevede una riduzione di 10.000 dipendenti, mentre Goldman Sachs, con la giustizia americana che la accusa di frode e conflitto di interessi, spende in avvocati, ma manderà a casa entro dicembre 1.000 persone. Deborah Rosciani, Radio 24, Il Sole 24 Ore. In Italia intanto è iniziato, tra polemiche, controproposte e proteste, l'iter parlamentare della manovra. Contro il decreto del governo, la CGIL ha indetto uno sciopero generale per il 6 settembre. Torniamo ora a riaprire il caso di Dominique Strauss-Kahn, l'ex presidente del Fondo Monetario Internazionale. Si prepara a tornare in Francia dopo che il giudice di Manhattan ha archiviato le accuse nei suoi confronti per violenza sessuale, accogliendo la richiesta del procuratore. Secondo i magistrati newyorkesi, infatti, non ci sono sufficienti prove a suo carico. Davanti alla Corte Penale di Manhattan, però, un centinaio di persone, soprattutto donne, hanno protestato contro questa decisione e hanno invocato giustizia per la cameriera dell'albergo di Times Square che aveva denunciato di aver subito violenze. Ma la vicenda non è ancora chiusa, perché un avvocato che agisce per conto della cameriera ha denunciato il tentativo di pressioni su un testimone. Voltiamo pagina, tutta l'Europa meridionale fa i conti con una nuova ondata di caldo. Ma è davvero un'anomalia? Massimiliano Pasqui del CNR al microfono di Giacomo Segantini. In realtà il grosso del caldo sta nell'Europa dell'Est, perché l'Europa occidentale, in particolare quella atlantica, ha vissuto un'estate particolarmente fredda, tra l'altro quantitativi di precipitazione assolutamente da record, in particolare nelle isole britanniche, dove moltissimi record di precipitazione intensa sono stati infranti proprio d'estate. L'estate si sta definitivamente spostando? Negli ultimi anni c'è stata questa conclamata tendenza ad avere periodi caldi verso la fine dell'estate, ma anche verso l'inizio. Quest'anno l'abbiamo avuto particolarmente anticipato verso maggio. Quali sono le cause di questa nuova tendenza, diciamo? Sicuramente la grande quantità di energia accumulata negli oceani, in particolare quello indiano e quello pacifico, determinano alcune di queste modifiche. L'umidità ha giocato un ruolo fondamentale. Questo perché l'ondata è stata particolarmente lunga e le correnti provenienti dal Nord Africa si sono potute caricare maggiormente di umidità attraversando il Mediterraneo. Infine lo sport, il calcio. José Mourinho pone termine a tutte le voci di un suo addio al Real Madrid. Non me ne vado, ho enormi motivazioni e un grande legame col club, ha detto l'allenatore della squadra madrilena. Ed infine per il calciomercato, ora è fatta e tu passa dall'Inter all'Anzi per 27 milioni di euro. Sentiamo. Domani mattina alle 9 aspettano Samuel Eto'o a Roma, a Villa Stewart, per fare la visita medica. Sarà il suo primo atto da giocatore in esilio nel Dagestan. L'AMCI è al momento una squadretta che si è appena arrampicata per la prima volta al terzo posto del campionato russo. È guidata però da un uomo che si chiama Suleyman Kerimov, il cui motto è «Coi soldi avremo tutto». Quei soldi sono tantissimi e chiacchierati. vengono spesi o elargiti o regalati non tanto per amore del calcio o di bandiera, ma facendo rotolare il pallone per scopi politici in un'area in cui si insegue una pace fragilissima, forse impossibile. Eto'o è un costosissimo strumento di un gioco e di uno scenario abbastanza surreale e molto cinematografico. Immaginatevi un manipolo di straricchi calciatori che vivono e si allenano a Mosca sotto stretta sorveglianza. Il venerdì notte sbarcano sul Mar Caspio e un corteo di macchinoni attraversa la povertà totale. Li vedranno sbucare dal sottopassaggio di uno stadiolo, giocare e poi scappare via di corsa tra scorte armate. Questa è la nuova vita di Samuel Eto'o in cambio di 20 milioni netti all'anno. Carlo Genta, Radio 24, Sole 24 Ore. Ed è tutto anche per questo appuntamento con 24 Ore in Europa. Un saluto a tutti voi da Raffaella Calandra. 24 Ore in Europa, in collaborazione con Euronet.